Sono fatte apposta. Vuol dire che c'è una relazione tra queste due cose. Non scritta, ma... Non scritta, no. Non ti hai mai capito. Grazie per il cioccolatino che mi ha dato proprio... Buonissimo. Grazie, buonissimo. Buonissimo. Grazie. Grazie. Allora, torniamo a, al tema della ricerca del, del lavoro. Quindi abbiamo visto i flussi di informazione e vediamo queste due esperienze di ricerca che naturalmente non è che chiesi le spieghi, le presenti cioè, nei minimi particolari, eccetera. Ci sono i riferimenti bibliografici, però vi dà idea di quali sono... diciamo, qual era l'oggetto di queste ricerche e soprattutto i risultati. La Novetta ha studiato, ed è diventato molto famoso questo studioso, un grande studioso, perché ha studiato la forza dei legami deboli. I legami deboli sono i legami che ho definito poco fa, no? Cioè i legami di semplice conoscenza personale, interconoscenza, cioè, i conoscenti. Ecco. La forza dei legami deboli rispetto a che cosa? Rispetto all'efficacia che hanno come canali per trovare lavoro, per avere delle informazioni che funzionano, buone, di qualità, su un lavoro. Perché è importante il risultato di questa ricerca? Perché ha dimostrato che le relazioni particolaristiche, cioè le relazioni sociali, sono centrali anche negli assetti di mercato moderni per trovare lavoro. Assetti di mercato che sono apparentemente, ecco, appunto, istituzionalizzati, universalistici, eccetera. Ebbene, pure lì la presenza di relazioni. Dieci anni fa, ho curato assieme ad un, ho avuto l'onore di curare assieme ad un grande sociologo francese che si chiama Michel Fosset. È un numero monografico di una rivista che si chiama Sociologia Politiche e Sociali, dal titolo Capitale Sociale e Analisi dei Reticoli. E lui lì dentro ha pubblicato un saggio che si intitola proprio sul ruolo specifico del capitale sociale per cercare lavoro, e presenta dei dati sulla Francia. È stato chiesto a un campione di francesi: il lavoro che hai trovato adesso, l'informazione su questo lavoro, come l'hai ottenuta? Leggendo i giornali, vedendo degli avvisi in televisione, oppure grazie a un canale di interconoscenza personale, questo tipo di scelta, conoscevi già il tuo datore di lavoro, sei stato assunto per il titolo di studio che hai, che cosa prevale? Si è vista che l'importanza delle conoscenze interpersonali per trovare lavoro. Ora, perché questo un po' stride col progetto della modernità? È un po' come quando diciamo che lo status della famiglia di origine determina in parte il rendimento scolastico delle persone, no? Perché la modernità ha prodotto delle istituzioni che hanno lo scopo di accrescere l'uguaglianza tra gli individui. La scuola pubblica serve a crescere l'uguaglianza tra gli individui, dare a tutti la possibilità di avere. E quindi se permangono delle differenze collegate alle reti, alle relazioni che ciascuno di noi ha, che lo differenzia rispetto a tutti gli altri, allora diventa un tema importante dentro all'organizzazione, per esempio, del mercato del lavoro nelle società moderne. Per questo Chiesi sottolinea molto questo aspetto, no? Anche nel mercato del lavoro moderno i legami, le relazioni che sono particolari perché coinvolgono quei due soggetti in particolare in relazione, sono importanti per trovare lavoro. In modo particolare, che cosa ha scoperto la Novetta? Che per i lavoratori professionalizzati, quindi altamente qualificati, okay, le informazioni rilevanti su un'opportunità di lavoro provengono soprattutto da contatti di semplice conoscenza, cioè dei legami deboli, mentre è piuttosto raro l'intervento di parenti e amici, cioè legami forti. La struttura delle relazioni è preminente sulla motivazione degli attori. Cosa vuol dire questa frase? Allora, per avere un'informazione utile sul lavoro altamente professionalizzato, sono più utili i legami deboli che abbiamo rispetto ai legami forti, cioè legami attivati con frequenza, intensi dal punto di vista affettivo, emotivo, eccetera, cioè i legami con gli amici, con i parenti. Perché? Questi secondi sarebbero senz'altro più interessati ad aiutarci, a darci un'informazione, ma non sono nella posizione strutturale migliore per poterci dare l'informazione di cui abbiamo bisogno. Perché? Perché tendenzialmente condividono già il mondo nel quale noi stiamo. Se loro hanno informazione, è molto probabile che ce l'abbiamo già anche noi. Quindi non ci danno un supporto ulteriore, non ci mettono in collegamento col nuovo, con la novità. Ok? Cosa che invece avviene quando stringiamo dei legami di semplice conoscenza. Magari in un'occasione di lavoro, no? Si conosce qualcuno che si occupa, altamente specializzato di un certo tema, e da quella persona può arrivare, che non ha un interesse specifico, non è che abbia a cuore la nostra vita, però può arrivare un'informazione utile su una disponibilità di lavoro. Quindi la struttura delle relazioni, cioè avere legami deboli, è preminente sulla motivazione degli attori. Anche se un attore è motivato, se non è nella posizione migliore per potervi aiutare, non vi può aiutare, c'è poco da fare. Ok? E infatti, parenti e amici sono di certo più motivati ad aiutare chi cerca lavoro, ma non sono nella posizione strutturale migliore per poterlo fare. Essi infatti condividono con l'attore il medesimo ambiente e difficilmente dispongono di informazioni ulteriori rispetto a quelle che l'attore possiede già. Ok? Quindi, legami deboli, molto importanti per ottenere lavoro altamente qualificato. Ok? E i legami forti? A che cosa servono i legami forti? Non è che di per sé non aiutino a trovare un lavoro, ma che tipo di lavoro consentono tendenzialmente di trovare i legami forti? E qui Chiesi accosta questi due studi, lo studio di Granovetter e lo studio che vedremo adesso di Margaret Rieco, che invece riguarda, diciamo sostanzialmente, il tipo di legami che i lavoratori immigrati mobilitano per trovare lavoro appena arrivati in un nuovo, per esempio in un nuovo contesto. Il titolo del saggio della Greco, parzialmente tradotto anche poi in italiano nel volume curato dalla Piselli, è la traduzione italiana Corpi, catene migratorie e catene occupazionali. In questo studio la Greco dimostra che i legami forti sono importanti, hanno un ruolo centrale nel reperimento di lavoro dequalificato. Sono molto spesso dei reticoli familiari, per esempio, a gestire l'organizzazione dei lavori di tipo stagionale. Pensiamo a tutto il settore alimentare, la raccolta, per esempio, la raccolta di ortaggi, frutta, eccetera, e dei lavori svolti dai migranti, prevalentemente in questo caso in riferimento al settore metalmeccanico. Perché in questi settori si incoraggia il reclutamento, la pratica del reclutamento informale attraverso i lavoratori già occupati? Perché il mediatore, cioè colui che fa circolare l'informazione sulla disponibilità del lavoro, aiuterà il datore di lavoro nel controllare la forza lavoro, poiché ha utilizzato un elemento reputazionale che mette in gioco anche se stesso agli occhi del datore di lavoro, rispetto al nuovo reclutato. E perché questo tipo di reclutamento favorisce la socializzazione sul posto di lavoro, cioè il legame forte, chi consente ad un suo parente, amico, di lavorare, per esempio nel settore della della raccolta, nel lavoro di tipo stagionale, nel settore agroalimentare, avrà tutte le capacità e il canale informativo, il canale comunicativo adeguato per formare sul posto di lavoro il neoassunto, perché magari parla la sua lingua, perché può esercitare su di lui anche una pressione, può controllarlo, può sanzionarlo se non esegue bene il suo lavoro, eccetera. Cioè lo aiuta, e naturalmente si tratta di lavori che possono essere appresi in breve tempo direttamente sul campo. Ok? Com'è? Sì, mi viene in mente le cooperative di facchinaggio, non diamo le corriere. Esistono queste catene anche lì, ma perché? E quindi. Sì, io parlo di quelle dei corrieri, perché lì purtroppo. Allora, torniamo a un esempio che forse ho fatto nella prima o nella seconda lezione, no? Un giovane ingegnere che arriva in Italia, perfettamente formato, inglese perfetto, eccetera, è un immigrato, arriva in Italia perché ha bisogno di lavorare ed è altamente qualificato. Tecnica, se uno apre il lo vuoi subito beccare da quest'altra parte, se appena chiude, si apre la porta, adesso io non lo farò, la prossima volta lo faccio, dico lei chi è? Prima è stato bellissimo, comunque lei è uscita da qui tossendo, stava un po' male, è uscito da qui tossendo, dopo un secondo è entrato da lì e non tossiva più, è come se qui fuori ci fosse stato, è vero, io anche lei ha avuto quell'impressione, c'è un costo, dico, di decantazione, ma che c'è qui fuori? Ah, ecco, volete che apriamo un pochino la finestra? No, hai un attimo che dice. Certo, sì, sì. Allora, ecco, facciamo questo esempio, no? Secondo voi è più probabile che svolga un lavoro dequalificato o un lavoro altamente qualificato? Quali sono in genere i legami di accoglienza di un giovane, qualcuno che arriva in un paese in cui non conosce nessun altro, sono delle reti parentali, amicali, familiari, legate al paese di origine, d'accordo? Grazie a queste reti, con ogni probabilità potrà lavorare, ma i lavori che farà all'inizio saranno lavori dequalificati rispetto alle qualificazioni, alle qualifiche che ha personalmente, d'accordo? Perché non ha, diciamo, poco probabile che abbia dei legami che lo possano aiutare per trovare un lavoro invece altamente qualificato. E quindi vedete che a partire da questi due contributi, quindi a partire dal lavoro di Granovetter e Greco sui reticoli sociali, si dimostra che, dice Chiesi, il percorso informativo tra chi domanda e chi offre il lavoro non è mai molto lungo, perché l'elemento fiduciario è estremamente rilevante. Quindi, il percorso non molto lungo sta a significare questo: se qui c'è un possibile datore di lavoro, N1, che fa circolare l'informazione sulla disponibilità di questo posto di lavoro, il percorso che porterà l'informazione a chi poi si aggiudicherà il posto di lavoro non sarà mai troppo lungo. Non può essere lungo perché l'elemento fiduciario, cioè la quantità di mediazioni che può tollerare questo rapporto, non è molto elevata. Se N1 si fida molto di N2 ed N2 non può fare il lavoro, probabilmente si fiderà di un soggetto menzionato da N2, ma non oltre. Sarà molto probabile che si vada oltre, d'accordo? E l'informazione sul lavoro non fa mai molti passi prima di trovare una risposta. Se deve fare troppi passi, la risposta non arriva. Questa è l'informazione che viene fuori da queste ricerche. E poi si confuta l'ipotesi che il mercato del lavoro moderno sia retto da principi impersonali, meritocratici e universalistici, poiché quando ci sono relazioni c'è sempre chi che muovono i meccanismi, che producono i meccanismi sociali, c'è sempre una parzialità, un pezzo di mondo che si muove. E se l'elemento fiduciario è molto forte, è chiaro che non si può prescindere dai legami personali, particolaristici. Quindi, diciamo, non impersonali, non universalistici, eccetera. Questo è più chiaro nell'esempio dei legami forti, ma lo è, forse lo è meno, ma è molto rilevante e molto importante anche rispetto ai legami deboli, eh? Anche rispetto ai legami deboli. Inoltre, l'informazione utile, stavo ancora scrivendo qualcosa, ecco, l'informazione utile per attivare il mercato del lavoro è il sottoprodotto di altri processi sociali. Cosa vuol dire questa affermazione? Lei mi deve rispondere, mi può rispondere, perché è esattamente quello che abbiamo visto prima facendo il disegnino della squadra. L'informazione, cioè il rendimento della squadra, del singolo, ma in quel caso il singolo è la squadra, il rendimento del singolo determina il rendimento della squadra, forse in maniera più chiara che in altri sport. Si parla del mondo sincronizzato, ok? E cosa vuol dire che l'informazione utile per attivare il mercato, cioè ciò che circola, è il sottoprodotto di altri processi sociali? Che il legame forte non esiste, non nasce per la circolazione dell'informazione sul lavoro, esiste prima che circoli l'informazione sul lavoro dequalificato. Il legame debole non nasce perché circola l'informazione sul lavoro, ma esiste già. Cioè il canale di circolazione per l'informazione c'è già. Quindi il fatto che questa informazione arrivi ad un soggetto che la raccoglie e la utilizza, la sfrutta per sé, sta a significare che questo soggetto occupava già una posizione nella rete che gli ha fatto avere quella informazione, ok? Una rete che è stata prodotta da altri processi sociali, non collegati alla circolazione di informazioni sul mercato. È chiaro quello che voglio intendere, no? L'informazione utile è il sottoprodotto di altri processi sociali. Il sostegno, ecco, prendiamo l'esempio di una squadra non agonistica. Il sostegno, il legame strumentale, molto spesso può essere il sottoprodotto di altri processi sociali, cioè riescono ad aiutarsi con maggiore efficacia, finalizzando l'azione alla preparazione atletica, ad esempio, soggetti che sono collegati anche da un legame espressivo, cioè che in qualche modo si considerano amici. Deve esistere quel legame perché esiste il secondo. Ok? Deve nascere finalizzato a quella. Allora, è come se, faccio l'esempio qui, no? Chi possiede una informazione sul lavoro, a un certo punto si mette in piazza e comincia a dire: c'è questa possibilità di lavoro, c'è questa, allora uno lo ascolta e nasce il legame con lui. Ok? Uscendo da questo esempio, dove è chiarissimo il fatto che deve già esistere un canale per la circolazione di qualcosa, una relazione può nascere, per esempio a livello lavorativo, ed ha un contenuto. Grazie a quel contenuto nasce la relazione, quella relazione può essere però anche portatrice di altri contenuti in futuro. Ok? Però noi non sappiamo quali sono, per tutti i tipi di contenuti, le probabilità che ne accolgano altri queste relazioni. Non so se rendo l'idea, no? Per esempio, nelle esperienze che ho visto io in ambito sportivo, i livelli, diciamo, agonistici hanno chiaramente una distinzione tra la dimensione espressiva e quella strumentale, si vede con più chiarezza. I non agonistici meno, tendono a essere più sovrapposti. Allora, se questo dato fosse confermato su ampia scala, io potrei dire che in un contesto non agonistico è più facile che creato un legame, se ne nasca pure un altro tra due soggetti. In ambito agonistico potrebbe essere più difficile, d'accordo? Quindi, in ambito, diciamo, facendo un esempio, dica. Facendo un esempio, nella gestione delle relazioni di comunità, capire se ci sono, se produrre un legame, per esempio, un legame di frequentazione tra due soggetti, favorisca anche il fatto che questi si aiutino, è molto importante, ma noi non possiamo dare per scontato che questo succeda. Invece in ambito lavorativo è stato dimostrato piuttosto chiaramente, credo, perché arrivi l'informazione, è utile, è necessario che ci siano già processi sociali che si sono attivati precedentemente. I fenomeni macro, allora, secondo Chiesi, alla fine possono emergono come combinazione di processi a livello micro. Cosa significa questo? Qual è il fenomeno macro che possiamo collegare a quello che abbiamo visto in ambito lavorativo per i legami forti e i legami deboli? Come? Me lo sto ricomandando. Trovare lavoro con il mercato. Il mercato del lavoro, cioè il mercato del lavoro che noi ci troviamo di fronte a livello macro, emerge come combinazione di tutti questi processi che hanno vita a livello micro. D'accordo? Più che come l'applicazione di regole di carattere generale, eccetera. Va bene, secondo esempio, come si diffondono le cose? Come se ci fosse un insieme grande che sarebbe il mercato del lavoro e piccoli sottoinsiemi che sarebbero il micro. Le relazioni che producono complessivamente come esito un certo mercato del lavoro. Per cui, faccio un esempio molto semplice. Le differenze che esistono rispetto al mercato del lavoro tra cittadini italiani e non italiani, sui grandi numeri, da cosa dipendono? Dalla combinazione di questi fenomeni a livello micro, cioè relazionale in questo senso, che portano questi soggetti, alcuni soggetti a svolgere lavori che sono tendenzialmente più dequalificati rispetto agli altri. Ma perché? Cioè il meccanismo che li porta a fare quel lavoro è un meccanismo per forza relazionale, capite? Perché se... quale dovrebbe essere altrimenti la ragione? A parità di titolo di studio, di competenze, eccetera, perché è più probabile e meno probabile che un ingegnere etiope faccia l'ingegnere in Italia rispetto all'ingegnere italiano? Posso dare un piccolo esempio un po'. Dica. Che illustra un po', cioè secondo me illustra alla perfezione questo esempio. Lì dove lavoravo io precedentemente c'era una società di catering, faceva dei servizi di catering, matrimoni, cose. Eravamo in 80-90% dei dipendenti, che erano 10-12 persone, tutti laureati, cioè, e che tiravamo l'uno l'altro, perché lui, cioè il datore di lavoro, chiedeva se necessitava di personale, diceva uno di noi, il quale sentiva qualcuno dell'università. Per esempio a me mi hanno detto amici che non, cioè, che non è che avevo dei rapporti particolari o amicizie. Cioè, mi hanno detto che serve personale per fare questo tipo di lavoro. Sono andato lì, dopo ho finito per fare un contratto, sarà 8 mesi, e ho fatto tra virgolette io il ruolo di trovare qualcun altro. Hai trovato qualcun altro che lei conosceva già personalmente? Ma nel senso, no? Il mercato di lavoro tra virgolette era da persone all'università che erano quasi tutti laureati, facevano specialistiche o cose, e facevamo un lavoro di catering. Beh, però sì, poi diciamo che... Però sia il ricercare il mercato del lavoro, cioè è stato un ricerco non nel mercato puro, però tra amicizie, tra persone conoscenti, eccetera. Per un lavoro qualificato o dequalificato? Non è qualificato perché non rispecchiava, diciamo, il ruolo fisso. Non richiede... Qualificato si definisce molto facilmente, secondo me. Cioè non richiede una particolare qualificazione certificata come titoli di studio eccetera perché possa essere svolto. Per cui per esempio il lavoro di facchinaggio, faccio un esempio, richiede che uno ce la faccia a farlo, no? Nessuno ti chiede un titolo di studio, non c'è una preparazione di 10 anni per farlo o certificate. Certo che bisogna saperlo fare, bisogna essere adeguatamente formati, però qualificato rispetto a capitale culturale certificato dal titolo di studio sostanzialmente, no? Ecco, il secondo esempio che Quindi diciamo che questo è molto utile, perché noi siamo abituati su certi fenomeni a capire che beh sì, mi aspetto che sarà più probabile che lo faccia un italiano rispetto a non italiano, ma se poi ti chiedo perché, qual è la ragione per cui la farà un italiano, qual è il motivo, qual è, perché il etiope non può essere questo, d'accordo? No? D'accordo? Cioè non può. Non... Dove stanno le origini, dove stanno il fenomeno? Stanno molto probabilmente nelle relazioni che uno ha e l'altro non ha. Poi per quanto riguarda la situazione del mercato giovanile del lavoro italiano, sapete che in alcune zone supera il 40% di livello di disoccupazione, quindi voglio dire, ci sono anche altri fenomeni, non soltanto questi evidentemente, ma quando il lavoro si trova è chiaro che l'informazione è transitata all'interno delle reti personali. Va bene. Come si diffondono le innovazioni? Allora, da che cosa dipende il grado di innovatività di un medico? Cioè la tendenza che ha il medico di prescrivere un nuovo farmaco, il fatto che prescriva un nuovo farmaco. Allora, qui Chiesi commenta i risultati di una ricerca di Coleman e alcuni suoi collaboratori, e questo è il risultato sostanzialmente. Partiamo dal risultato: il grado di innovatività dipende dalle sue caratteristiche personali, cioè dalle caratteristiche personali del medico, quanto è curioso, quanto è competente, quanto studia, eccetera, eccetera, meno di quanto dipende dalla posizione che egli ricopre nella rete dei rapporti che ha con i suoi colleghi. Questo è molto interessante, anche a me è capitato qualche volta di chiedermi, ma come mai il mio medico mi prescrive questo farmaco? E perché, come ha avuto l'informazione, perché se lo trova sul tavolo in quel momento, e perché questo farmaco è risultato da nuove ricerche maggiormente efficace, qual è la ragione per cui un mal di testa te lo faceva curare con un farmaco fino a ieri e da oggi invece ti suggerisce di prenderne un altro? Questo è molto interessante, e soprattutto interessante perché poi è collegato con l'ambito della medicina, che richiede certo aggiornamento, eccetera. Allora qui si dice, no? È chiaro il punto qual è? Dipende più dalle relazioni che ha che dalle caratteristiche personali, individuali che ha, ed è esattamente il punto. Noi dobbiamo dimostrare che queste tecniche servono a capire cose che non capiamo se non le usiamo, d'accordo? Anche in network marketing si basa sulla rete di relazioni che uno ha. Mi faccio un esempio di network marketing. Cioè, come diffondere, diciamo così, un prodotto tramite le relazioni interpersonali, si cerca di replicare se stesso reclutando altre persone che fanno il lavoro con lui, per cui allarga fa proprio una rete che usa per far circolare un prodotto? Crea la rete perché fa circolare il prodotto, o fa circolare il prodotto in una rete di conoscenze che aveva già? No, crea un relato, perché non è detto che poi quella rete che tu ti sei, cioè può esistere una rete di amicizia dove tu vai a proporre il prodotto, però lui domani mi dice: no, guarda, ma che schifo quel prodotto lì, quindi si blocca lì. Ok, però dopo quell'amico lì magari lui piace parlare a una attuale di contatto, e tu crei una specie di business basato sulle relazioni. Sì, ma in ogni caso voglio dire che non crei dei legami, usi dei legami per far circolare, perché se lui porta dei legami, no, diciamo, però li crea l'intermediario. Cioè il legame lo crea la condivisione di un legame comune, lui che certifica dell'attendibilità del venditore, dice: guarda, è una persona che conosco, ti puoi fidare. Allora nasce il legame di fiducia, dentro quel legame poi circola. Cioè voglio dire, non è il legame del venditore, non so, no? Io passo di fronte a una pasticceria, vedo una bella torta fuori, no? Entro dentro e creo una interazione col venditore per comprare il bene che ho visto fuori. Cioè non nasce la relazione per far circolare il bene, in questo caso non nasce grazie al bene, d'accordo? in questo caso è l'intermediario che crea il legame. Per esempio potrebbe essere come quando si presenta un prodotto in casa di qualcuno e arrivano a guardare altri a provarlo. Vi può fare un esempio proprio a quello a cui state pensando voi in questo momento? Io sto pensando a organo, non so più cosa stai pensando. Ah? L'Avon utilizza quel sistema di vendita. Sì. L'Avon utilizza quel sistema di vendita. Cioè organizza dei meeting, diciamo, a casa. Di... quello che penso io non è che uno, non è come la Just piuttosto che la Dabber, così che organizzano all'interno di casa di qualcuno una presentazione. Ma quello è un sistema proprio che è stato inventato. No, è un sistema di usano le mentali praticamente, cioè è stato importato le presentazioni più. Guardano a modello americano. Per cui portano questo, per cui tu hai, diciamo, una lista, mettiamola così, di conoscenze, okay, che devono essere dettate da legami di parentela, oppure conoscenze, oppure tu vai a riesumare colleghi di lavoro, amici. Di lavoro, persone che magari non vedi da anni, per cui cerchi di instaurare un legame che potrebbe essere finalizzato a veicolare il prodotto, così, piuttosto che a creare un business per cui tu crei un legame lavorativo. E gestisci poi comunque la vendita del prodotto, cioè alla fine si tratta di quello. Dipende, se tu punti sulla vendita del prodotto o se tu punti sul creare ancora business. Allora se tu crei business devi creare questo legame lavorativo che non diventa... Diventa una piramide. No, non è proprio una piramide, perché non è un rapporto gerarchico. Se parliamo di amo quelle lì, sì, se tu mi parli del Forex, no, allora è una rete diversa. È una rete diversa, quella che intendo io non è una rete piramidale, perché poi alla fine tu sì, sei legato da una relazione, sì, ma non è che chi prima ti ha presentato è il tuo capo, ok? Sì, sì, sì, allora quindi però... Forse è un modello di business... No, però secondo me è più che rispetto a questo, no? È calzante rispetto alle conclusioni delle slide precedenti, mi pare, perché è proprio... è appunto l'idea che si... reindirizzino dei legami che esistono già per un altro scopo che può essere lo so, però se per creare la prima lista fai appello, si fa appello ai legami amicali, ai colleghi di lavoro di un altro lavoro che si avevano in precedenza eccetera, però che si conoscevano già, d'accordo, non è che si fa un numero telefonico a caso, creiamo un legame per la circolazione di questo. No, no, io questo intendo dire, per questo ho chiesto di capire bene. Non è uno che tu faccia, io non conosco lui, a un certo punto guardo l'elenco telefonico, prendo prima. Perché ci sono forme di vendita di questo tipo, naturalmente. Ok, allora. Il legame che tu, diciamo, il contatto che tu crei, esauriti i tuoi, lo crei comunque tramite a una persona che hai conosciuto. Tramite un mediatore, col quale avevi un legame che preesisteva, magari anche di carattere commerciale, economico, però che preesisteva. Quindi è un esempio di reindirizzo di reti, riusare le reti per finalità diverse. Io il tema che collegherei pure a questo è, perché in parte, anche se sembra strano, ma potrebbe riguardare la situazione in emergenza, se voi avete la necessità di far circolare un'informazione, una risorsa rapidamente, potete usare le reti per garantire questa circolazione, d'accordo? Proprio come se fossero dei canali di circolazione di cose. Diventa, se io permetto, il passaggio di una serie di informazione e poi arrivi, tipo come il telefono senza fili, un'informazione distorta. Vabbè, allora, questo dipende da che cosa fa il mediatore. D'accordo? Se si tratta di un bene da far circolare, poi si può controllare se il bene è circolato oppure no. Quello che voglio dire è, in ogni caso, che un tema importante è capire che effetti produce sulla rete preesistente il fatto che circoli un nuovo contenuto. Cioè una rete che ha contenuto espressivo, che diventa una rete di scambio economico, sicuramente può un legame, ne può risentire, la relazione cambia in termini di contenuto. E questo può essere positivo o no rispetto alla tenuta del legame nel corso del tempo. Quindi non lo so, adesso io non ho idea non sono un esperto di marketing, quindi non, no, nello specifico di quali sono gli effetti che queste reti resistono nel lungo periodo, no? O che effetti producono sulle relazioni, però sarebbe interessante da prendere. In ogni caso è una rete che è un po' quello che abbiamo visto prima. Qua invece, tornando al discorso dei mezzi, cosa hanno visto poi le mani? Vedete che hanno avuto anche, no? Pionieristico da questo punto di vista. Io devo andare, purtroppo devo mettermi nel letto perché. No, sta bene? No. Mi dispiace. Buon weekend. No, mi dispiace perché quando mi attaccano le crisi di vertigini devo proprio buttarmi nel letto. Vuole mio marito perché non riesco nemmeno a guidare altrimenti. Ce la faccio, lui, l'importante è andare a letto e prendere il Dax. Okay. Ciao, grazie. Allora, Coleman e i suoi collaboratori mostrano attraverso una ricerca come i medici che entrano meno in contatto con i loro colleghi di lavoro, quindi con i loro colleghi, con altri medici, risultino meno innovatori di quelli che sono ben integrati nella rete dei rapporti interpersonali con altri medici. Quindi, paradossalmente, per sapere qual è il livello di innovatività, se uno volesse scegliersi il medico, no? Avete visto quando ci scegliamo il medico, quando gli sono davvero al momento, scelga qua, mi hanno dato la lista, nel senso che non li conoscevo, non ho fatto un'indagine preliminare sui medici, eccetera. Ecco, allora, uno potrebbe anche chiedere, potrebbe dire, beh, allora, qual è il livello, quanti sono i rapporti interpersonali con altri medici che ha? Perché questo potrebbe essere un indicatore del fatto che il medico è innovatore oppure no. E poi questi, adesso vi faccio vedere la fase successiva, quali sono gli step dell'innovazione, nella distribuzione dell'innovazione che vedono Coleman e i suoi collaboratori. Allora c'è innanzitutto una fase iniziale, se posso. Ecco, fase iniziale, i soggetti più integrati a livello di legami con altri medici sono influenzati innanzitutto da relazioni di tipo professionale. Quindi, dentro queste relazioni, naturalmente, che cosa vuol dire questo? Evidentemente ci saranno le pubblicazioni, la novità sul nuovo mezzo, sul nuovo farmaco, eccetera. Allora, i soggetti che sono più integrati nella cerchia, dei colleghi di lavoro sono quelli che saranno, diciamo, tendenzialmente più innovatori. Dopodiché, quando l'adozione del nuovo farmaco si diffonde anche nelle zone, nelle fasce più periferiche di questa cerchia, diciamo qua, che cosa succederà? Succederà che assumeranno maggiore importanza le relazioni amicali. Potremmo dire che da questo punto in avanti sono i rapporti amicali, quindi legami di carattere più espressivo, non lavorativo, ad essere importanti per la circolazione delle informazioni sul nuovo farmaco. E quindi al tempo, diciamo, se questo è il tempo T1, al tempo T2 saranno importanti i legami amicali. E quindi questi medici daranno ai loro pazienti, prescriveranno ai pazienti il nuovo farmaco. Infine, il comportamento innovativo si diffonderà anche tra gli interpretari, a prescindere dalla loro posizione all'interno del reticolo. Allora, questa ricerca fa vedere come due tipi di legami diversi, il legame, diciamo così, di colleganza prima e poi il legame amicale, incidano in tempi diversi sulla probabilità che un medico sia innovatore rispetto alla prescrizione di un nuovo farmaco, ok? Naturalmente, in base al tipo di legami che ha, si collocherà in una certa fascia all'interno della rete, il medico X qualunque, e questo consentirà in qualche modo di prevedere qual è il suo livello, stimare il suo livello di innovatività. Allora, anche questo è importante perché prima abbiamo visto che i legami il tipo di legame, a prescindere dalla diciamo motivazione individuale, il parente che vorrebbe aiutare, eccetera, eccetera, no? Ci sono dei casi. Ecco, a prescindere dalla caratteristica individuale, il legame favorisce un certo tipo di fenomeno sociale, anche in questo caso è uguale. A prescindere dalla loro curiosità, dal loro livello di preparazione, eccetera, la posizione all'interno della rete deciderà quando ci sarà una certa azione. L'azione, nel caso precedente, era la circolazione dell'informazione sul lavoro, in questo caso l'azione è invece il, come dire, l'adozione di un nuovo fatto, l'innovazione. Lo scopo di questi esempi è proprio quello, di far emergere dei meccanismi che sono capaci di spiegare l'azione degli individui, però a partire dalle relazioni di grado. Il terzo esempio lo vediamo soltanto con una slide, è come si fa carriera, è il tema della mobilità, il tema della mobilità sociale. Qui se potessimo fare un disegnare, diciamo così, poniamo che questa sia la stratificazione sociale, qui abbiamo la classe bassa, la classe media e la classe alta, quindi non so, dirigenti, professionisti, eccetera, eccetera, qui artigiani, lavoratori dipendenti, impiegati di concerto, eccetera, eccetera, qui operai specializzati, non specializzati, operai agricoli, operai industriali, insomma le classi sociali, per come siamo abituati a... Ecco, qual è la probabilità che laddove ha senso parlare di mobilità sociale, quindi laddove ha senso parlare di un trasferimento da una classe sociale a un'altra, quali sono i capitali che entrano in gioco rispetto a questa possibilità? Soltanto le competenze individuali, le risorse che hanno gli individui, o c'entrano anche le relazioni? Ogni classe sociale conferisce agli individui delle specifiche risorse sociali. Queste risorse sono state definite anche capitale sociale. Cos'è il capitale sociale? Lo trovate definito in questa parte del testo. Secondo questa definizione, consiste nella capacità del soggetto di mobilitare a proprio favore le reti parentali, le solidarietà amicali, eccetera, e di sfruttare a proprio vantaggio i flussi informativi, riservati e informali, che passano attraverso le relazioni in ambienti caratterizzati da diversi gradi di chiusura sociale. Quindi, per fare carriera, cioè per migliorare la propria posizione all'interno della stratificazione sociale, quando si parla di mobilità sociale si parla di questo, ma modificare la propria posizione rispetto al lavoro, alla professione svolta, questa è la mobilità sociale. La mobilità sociale può essere orizzontale, se si cambia lavoro ma non si cambia classe, se si è impiegati di concerto nell'azienda X e poi si cambia lavoro e si fa un lavoro simile nell'azienda Y, oppure verticale, ascendente, se si migliora la propria posizione di classe sociale, discendente se la si peggiora. Il capitale sociale è definito. Scusi, il dato di questo, il soggetto individuo dovrebbe essere uguale, è la sua collocazione nella posizione lavorativa che fa cambiare le relazioni. Cioè, no, questo sta dicendo una cosa diversa, ho capito quello che intende. No, cioè, mi sono persa allora, scusa. Quello che voglio dire è questo. Perché un soggetto possa transitare da una classe sociale all'altra, cioè cambiare lavoro, in questo senso non resta uguale perché cambia il lavoro che fa, è importante la rete delle relazioni che può usare a questo scopo. Ok? Perché attraverso le informazioni può arrivare l'informazione, ma può arrivare anche un sostegno diretto, una presentazione di qualcuno che può aiutarti. Può arrivare un sostegno economico importante. Se hai bisogno di un periodo di formazione di 2 anni lontano dal mercato, dal mondo del lavoro all'estero, per migliorare la tua posizione, e qualcuno ti dà la risorsa per tenerti in vita per 2 anni senza dover lavorare, quello è un sostegno che arriva per mobilitare la propria, per modificare nel senso di mobilità la propria posizione nella stratificazione sociale. Ok? Ecco, quindi non sono soltanto le forme di capitale economico e culturale che gli individui hanno per migliorare la propria posizione lavorativa, ma anche capitale sociale, cioè le relazioni intorno ad essi e le risorse che grazie a queste relazioni riescono ad ottenere. È molto semplice alla fine il concetto, no? Quindi il capitale sociale, cioè le relazioni sociali utili, utilizzabili dai soggetti, mobilitabili a proprio favore per migliorare la propria posizione lavorativa, cioè fare carriera. L'ultimo esempio è l'esempio che forse ho fatto quando abbiamo iniziato all'inizio durante le prime lezioni per farvi capire un po', perché adesso secondo me è piuttosto chiaro che cosa c'entri la ristrutturazione delle reti comunitarie con l'intervento in situazione di emergenza, no? Ma all'inizio, per evitare che la vostra presenza fosse soltanto dovuta ad un atto di fede, io, come dire, ho dovuto fare degli esempi. Vi ricorderete forse questo esempio qui, questa rete è meglio di quest'altra rete per aiutare il soggetto a superare una situazione di malessere. E ho citato una ricerca, poi dovete vedere una ricerca di Caducci su questo. Questo è il momento in cui io mantengo la promessa che feci allora, perché questo è l'esempio che avevo presentato, anticipato. La densità delle relazioni sociali, però noi non abbiamo ancora imparato a misurare la densità, però io vi ho detto che cos'è. La densità è il rapporto tra le relazioni effettivamente attivate e il valore massimo di relazione, la quantità massima di relazioni che sono affidabili. Allora, è più densa questa rete, la rete che chiamiamola A, o è più densa la rete B? La densità è il rapporto tra le relazioni effettivamente attivate e la quantità totale di relazioni attivate. Densa la rete A. Allora, entriamo un attimino rispetto a questo tema, no? Questo è molto importante, questo tema, quindi cerchiamo di capirne il senso, il significato sociologico. Noi abbiamo visto la contrapposizione tra modernità e tradizione, abbiamo visto la differenza tra comunità e società, ve la ricordate in Turing, Gemeinschaft e Gesellschaft, no? Abbiamo parlato di questo, poi vi ho anche mostrato le pattern variables di Parsons, le varianti di modello, eh? Le relazioni comunitarie, le relazioni societarie, cioè le relazioni che sono, diciamo così, più tipiche delle forme moderne di società. Allora, secondo Turing c'è un passaggio costante dalla Gemeinschaft, cioè dalla comunità alla società. La Gemeinschaft si fonda su alcune relazioni fondamentali, la relazione di alleanza tra uomo e donna, la relazione di consanguineità, cioè sulle relazioni primarie, le relazioni familiari, diciamo così, e le relazioni che sono simili alle relazioni familiari. Dice Turing, il nostro mondo sociale è sempre meno una comunità, una Gemeinschaft, ed è sempre più una società, una Gesellschaft, un mondo di relazioni tra estranei, d'accordo, dove sono importanti i legami deboli, alla granometer potremmo dire. Perché questo tema è importante in sociologia? Guardate l'anno di pubblicazione dell'opera, 1887. Nel 1897 è uscito Il suicidio di Durkheim, e alcune forme di suicidio sono proprio collegate alla disgregazione sociale, secondo Durkheim. Questo è stato diciamo, un punto di grande interesse per i sociologi, perché per i sociologi di questo periodo, e anche oggi, ci sono sociologi che sostengono che ci sia questo costante passaggio, sebbene resistano naturalmente delle forme di comunità, ma che questo passaggio sia rischioso per gli individui, perché cambia la normatività delle relazioni e sostanzialmente può peggiorare la qualità della vita, non solo sociale, degli individui. Sociologi classici sono preoccupati della, stavo ancora spiegando, prego, sono preoccupati dalla minore integrazione sociale. Se c'è meno comunità, c'è minore integrazione sociale. Gli individui sono, diciamo, più portati a, sono privi di sostegno, si sentono l'uno diverso dall'altro, vivono con maggiore difficoltà. Tant'è che Durkheim collega la presenza di disgregazione sociale all'atto peggiore che un soggetto possa fare rispetto alla società, cioè quello di decidere di andarsene senza restare. Ci sono delle forme di devianza che prevedono il rifiuto totale della società, pur senza doversi suicidare, diciamo così, ma il suicidio è emblematico, cioè il fatto che uno dei primi studi di sociologia riguarda il suicidio è molto significativo, riguarda la via dell'exit dal sistema sociale. Per Durkheim la società aveva un peso enorme nel condizionamento dell'individuo. Quindi i sociologi classici sono preoccupati della nuova integrazione sociale che può accompagnare le forme moderne di società, che può derivare dalla rarefazione delle relazioni basate sul riconoscimento dell'identità. Durkheim, per esempio, studia il rapporto tra integrazione e malessere individuale e lui cerca proprio vuole studiare il suicidio come fatto sociale, cioè le cause sociali del suicidio, perché all'epoca il suicidio era prevalentemente considerato qualcosa dovuto a un stato depressivo, una debolezza di mente, cioè spiegato con fattori psicologici. Non è che non ci siano quei suicidi lì, esistono dei suicidi che non sono sociali, ma ce ne sono alcuni, secondo Durkheim, che hanno un fondamento eminentemente sociale, cioè dipendono dal contesto sociale, più che dalla, diciamo così, psiche del soggetto, dalla mente, da variabili che sono soltanto varie patologie mentali, corpo. No, no, certo ci sono anche adesso, però quello che dice Durkheim è non tutti i suicidi dipendono da patologie mentali. Sì, pensando al tempo. Sì, certo. Sì. Tant'è che lui, per esempio, nota la crescita del tasso di suicidio in alcune zone dopo momenti di grande crisi economica, momenti che producono un'assenza, sebbene temporanea, di norme, una ristrutturazione delle classi sociali, eccetera, suicidio anonimo. Crescono i tassi di suicidio perché cresce l'incidenza di malattie mentali? No, probabilmente questo senso di assenza di regole, eccetera, porta alcuni individui a non riuscire a, che perdono magari la loro posizione all'interno della struttura sociale, la peggiorano, eccetera, a reagire in questo modo, decidono di uscire dalla struttura sociale. Ok? Bene. C'è questo fenomeno questi tempi di crisi economica anche per chi perde il lavoro, per esempio. Certo, sì sì, io sarei curioso poi di vedere anche fra qualche anno i dati aggregati su questo periodo storico e vedere se effettivamente si è registrata anche in Italia, nei paesi che sono stati colpiti dalla crisi economica, che poi è diventata anche finanziaria in questi anni, una crescita rispetto al passato dei tassi di suicidio. Certo che adesso sono, diciamo, molto, quando c'è un suicidio collegato direttamente dall'esperienza individuale alla crisi economica, vanno subito, diciamo, nell'occhio del fuoco dei mezzi di comunicazione, perché naturalmente sono fatti sconvolgenti. Però Durkheim collega la presenza di suicidi a fenomeni sociali e anche di altro tipo, per esempio al tipo di etica religiosa presente all'interno degli stati. Perché in alcuni stati, per esempio in stati a religioni prevalentemente protestanti, si possono registrare tassi di suicidio tendenzialmente più alti rispetto agli stati dove prevale la religione cattolica? E cosa dipende da questo? No? E analizza il suicidio, e per esempio parla di altre forme di suicidio come il suicidio egoistico, l'individuo che non è sufficientemente, come dire, capace di collegarsi, di sentire un impegno nei confronti degli altri all'interno della società e decide di uscire da questo. Ci sono delle differenze fondamentali tra religioni anche cristiane, per esempio pensate soltanto, faccio un titolo d'esempio, no? All'ufficio al sacramento della confessione della religione cattolica, che deriva proprio da questo sfogo, da questo dire tutto alla comunità, no? Invece in altre forme di religioni non c'è. Allora questo produce un effetto, può produrre un effetto sulla capacità che ha il soggetto magari di, come dire, liberarsi dei pesi che ha, no? Allora, questo è un esempio, se potrebbero fare, se potrebbero fare altri. Lui dice che ci possono essere degli orientamenti culturali, religiosi, eccetera, che in qualche modo si collegano a livello aggregato. Oppure il suicidio per eccesso di integrazione. Il suicidio per eccesso di integrazione, abbandonare, togliersi la vita assieme dopo la morte del proprio partner, perché il costume della società nella quale si sta lo prevede, d'accordo? Allora, ci sono queste forme di suicidio che sono non direttamente collegabili a uno stato psichico di malessere del soggetto, però questo tema, siccome c'entra anche l'integrazione sociale, è un tema fondamentale, perché i sociologi classici hanno sempre teso a vedere questa, avendo soprattutto operato nel periodo che conosciamo, no? Quindi a cavallo tra, stiamo parlando noi, tra 8 e 900, quindi l'industrializzazione diventava ormai molto diffusa, cambiava il volto della società, da società agricole a società industriali, tante persone che vivono assieme, cambia il modo di produzione, è anche cambiato la forma modale di famiglia, no? Dalla famiglia allargata alla famiglia nucleare, d'accordo? Quindi in che modo questo ha inciso sui legami sociali? Quali tipi di problemi può produrre? Quindi questo è il legame tra integrazione sociale e benessere o malessere dei soggetti. Allora, qui al di là di questi esempi che ho provato soltanto così rapidamente a richiamare, ma se volete naturalmente potete poi, no, se si possono, possiamo anche approfondire qualcosa di questo che riguarda la sociologia classica, il contributo dell'approccio di rete consiste nel fatto che l'approccio di rete consente di affrontare la relazione tra integrazione sociale e malessere individuale, mettendo a tema l'integrazione sociale. Allora, che cosa vuol dire integrazione sociale? Che cosa vuol dire integrazione sociale? Se l'integrazione sociale è così importante per spiegare il livello di benessere di una persona, noi dobbiamo essere capaci di definire l'integrazione sociale, ma anche dal punto di vista operativo, dire c'è integrazione sociale, c'è coesione sociale qui o qua. Qual è il contesto? Ecco, con l'approccio di rete, grazie all'analisi delle reti, noi riusciamo ad avere direttamente una descrizione quantitativa delle relazioni sociali, cioè possiamo misurare il livello di integrazione sociale. Non dobbiamo passare dalla percezione di questo senso direttamente. Cioè, non dobbiamo chiedere a questi soggetti, secondo te il contesto sociale in cui vivi è integrato dal punto di vista sociale? Tanto ciascuno può intendere quello che vuole con l'integrazione sociale. E poi comunque è un testimone della sua esperienza, di quello che lui vede attorno a sé. Invece in questo modo io posso avere un indicatore diretto, quando si parlava di contesti più coesi dal punto di vista sociale che favoriscono il superamento di una situazione di bisogno, anche in collegamento alle ricerche, quella che vedremo post uragano Andrew, si fa riferimento proprio a questo tipo di concetto di integrazione sociale, che però, e noi adesso misuriamo, no? Possiamo misurare. Il benessere dell'individuo non è collegato con la numerosità delle sue relazioni interpersonali, ma con la presenza di reticoli in grado di fornire sostegno sociale e aiuto reciproco, e in genere quindi di reti amicali e di parentela. Il numero degli amici, dei parenti è certamente importante, ma siamo in grado di distinguere tra contesti comunitari e societari solo se introduciamo il concetto di densità della rete. Per cui questa è una comunità e questa non è una comunità, questa è una comunità. È una comunità perché è una rete altamente densa, è quello che ha in mente Tönnies quando parla di comunità. Anche se non parla di network, naturalmente, Tönnies, È quello che ha in mente Durkheim quando parla di un contesto socialmente integrato. Non è tanto importante quanti sono i legami che hai, ma se ce li hai in un contesto comunitario, questo modifica strutturalmente il contesto che ti fornisce i legami. Quindi, se qualcuno dovesse chiedere qual è il livello di integrazione sociale di questo gruppo di 30 persone che dobbiamo aiutare, secondo voi sarete in grado di misurarlo? di poter dare una risposta numerica a questa domanda? Con la network analysis sì. Oggi il livello di integrazione sociale è del 60,4%, dopo un mese è dell'80,9%. Avete fatto crescere del 20% il livello di integrazione, avete cioè rafforzato la qualità di essere una comunità, un contesto che state prendendo in considerazione. Le ricerche, alcune ricerche ci dicono che nella misura in cui succede questo, migliora il livello di benessere degli individui che fanno parte del contesto relazionale. Ok? È per questa ragione che ho utilizzato a suo tempo questo esempio nell'introduzione del corso. La densità è una misura molto semplice che vedremo, prossima settimana, esatto, vedremo. Ecco, mi raccomando adesso, se probabilmente compatibilmente con le vostre necessità, perché la prossima settimana vedremo delle cose un po' più tecniche, no? Quindi anche dal punto di vista poi della facilità nello studio può essere molto strategico seguire le lezioni tutte, ma in quella della prossima settimana in modo particolare, perché andando sul tecnico è chiaro che se c'è un problema, magari una cosa che si riesce a capire subito vedendola, emerge. Questo è l'esempio che avete all'interno del testo, pagina 35. Qui c'è il soggetto ego con quattro legami. La differenza per ego non cambia, se io mi limitassi a raccogliere l'informazione personale su quanti legami ha, questi due soggetti sarebbero identici, non la matrice di valore, la matrice dei dati che facevamo, non la righe e colonne, avrebbero lo stesso valore, sono uguali, d'accordo? Però quindi se chiedo poi quanto ti senti bene da 1 a 10 a livello psichico, scusate la presenza dell'esempio, questo mi dice 5 e questo mi dice 9, avendo una stessa quantità di legami di partenza, se incrocio le due variabili non vedo nessuna relazione, perché sono indifferenziati dal punto di vista, diciamo che rispetto a quella grandezza è come se fosse una costante, come se io chiedessi a due soggetti che sto intervistando con la prima domanda: sei vivo? Sì. Anche l'altro dirà sì, e poi non posso incrociare la domanda in vita o no con altre variabili, non trovo niente, d'accordo? Ecco, allora invece i contesti relazionali sono molto diversi. Questa è una comunità perché è molto denso, diciamo che ha raggiunto il livello massimo di densità, questa non lo è. Se tutti si conoscono è più facile che le norme sociali siano condivise e i comportamenti solidaristici rinforzati. Lei, se può, ripensi a quello che abbiamo detto prima rispetto al gruppo che si deve coordinare. Questo è l'effetto positivo sui singoli di quel tipo di contesto, d'accordo? Secondo gli studi di Carucci, di fronte ad eventi traumatici, coloro che partecipano ad un reticolo più denso, quindi che ha più la forma della comunità, sono in grado di assorbire meglio lo stress. I reticoli sociali più densi riescono cioè ad assorbire meglio i traumi. Quindi, quando purtroppo una popolazione di soggetti, un insieme di soggetti, subisce un evento traumatico che li riguarda tutti, anche questo bisogna dirlo, con delle differenze rispetto ai bisogni prodotti, ma una caratteristica che da un certo punto di vista rende più semplice l'inquadramento metodologico e empirico delle indagini sui contesti colpiti da emergenza, è che tutti hanno subito una stessa stimolazione altamente negativa, un evento traumatico che li rende differenziati, però ciascuno reagirà a partire dai capitali che ha a disposizione a questo evento. Allora, ciascuno avrà una rete fatta in un certo modo di sostegno, quella che ha già, ciascuno di noi ha una rete di sostegno, d'accordo? Pensate alla vostra collega, che adesso non stava bene, ha immediatamente utilizzato la rete di sostegno, e la rete di sostegno si è attivata, e adesso io immagino che stia meglio rispetto a quando stava seduta qui in aula. Okay? Ciascuno di noi ha la sua rete di sostegno, immaginatela come se fosse una sorta di grande o piccolo, rigido o morbido ammortizzatore quando subiamo qualcosa che ci fa stare male, un evento traumatico. Ok? Ecco, i risultati di questa indagine dicono che se volessimo utilizzare a livello teorico per leggere l'arrivo di una situazione di emergenza, che i soggetti che hanno una rete di questo tipo reagiranno molto meglio rispetto a tutti gli altri. Ok? Ecco, di nuovo, noi abbiamo un esempio qua di come, torno un attimo indietro, se considerassimo soltanto le caratteristiche degli individui, comprese tra le caratteristiche quanti legami di sostegno hanno, vedremo il meccanismo che produce invece un effetto notevole su una caratteristica dell'individuo, che è il livello di benessere psicofisico. Lo capiamo se guardiamo l'intero network, l'intera rete di sostegno. Bene, se passiamo alle... Volete fermarvi 5 minuti? Come siete messi? Sì, ci fermiamo 5 minuti? Ok, bene, ci fermiamo, se ci siete d'accordo? Sì. Una domanda. Dica. E adesso non si sentirà male anche lei? No, no, poi alla fine la ricerca comincia a essere stanca. Dopo la rialliniamo con un estintore. A me sfugge sempre come cogliere questa emozione. Ma torna dopo. Ma scherza, no, poi faremo. Tutte le volte che arrivo lì, e le vedo così rappresentate, no, mi torna, ho detto, ma sfugge a me, non l'ho colto. Vedremo come cogliere con degli strumenti di ricerca per la raccolta di dati. Scusi, io vado avanti. No, va bene invece, perché se si fa le domande a dire, vuol dire che siamo in sintonia, questo è importante. Cioè se una domanda viene al momento giusto rispetto all'argomento, vuol dire che c'è sintonia rispetto a quello che stiamo facendo qua, o no? Sì, no, è che io la vedo e dico, boh,